1 gennaio. La messa della vigilia di Capodanno è quella che tra tutte le celebrazioni nella nostra chiesetta mi colpisce di meno. Eppure questo luogo spoglio e brutto e la cerimonia che vi si svolge hanno su di me un effetto che una funzione celebrata in una chiesa comoda e ben illuminata non riuscirebbe mai a provocare. La notte scorsa ci siamo andate in slitta con i re e i minora. Abbiamo percorso le 3 miglia in completa solitudine. Nel buio più fitto con un vento fortissimo, imbacuccate fino alla punta del naso nelle pellicce e mute come un corteo funebre. Al momento di partire, il re ha detto che stavamo andando alla sepoltura dei peccati dell'anno che finiva, e in effetti nell'aria c'era un non so che di cupo. Sedute sulle panche riservate alla nostra famiglia, in galleria, tentavamo di decifrare i corali alla luce incerta delle candele di sego infilate nei buchi della boiserie, mentre gli spifferi agitavano le fiammelle. Il vento scuoteva le finestre con raffiche violente che fischiavano più forte dell'organo e sembravano a ogni istante voler spegnere le fiammelle traballanti. Il pastore, arroccato nel suo pulpito lugubre, circondato da polverosi angeli di legno intagliato, aveva un aspetto autoritario e minaccioso, mentre parlava a voce molto alta per sovrastare il frastuono. Seduta nell'oscurità, mi sono sentita molto piccola e sola, senza difese, in un universo immenso e nero. La chiesa era fredda come una tomba, qualche candela ha brillato fiocamente e si è spenta. Il pastore, di nero vestito, ha parlato di morte e punizione divina. Mi è sembrato di udire il grido di un bambino. Non poteva essere soltanto il vento, e presentimenti inquieti mi hanno turbata. A quel punto la fede e la filosofia mi hanno abbandonata e ho provato una sensazione orrenda di punizione imminente, per non so quale colpa. Se non ci fosse stato quel buio, se il vento non avesse ululato in modo tanto disperato, non avrei prestato tanta attenzione alle minacce che arrivavano dal pulpito. Fatto sta che mi sono messa a concepire buoni propositi. Ricorrere ai buoni propositi è cattivo segno, perché chi li fa poi non li rispetta. Invece che agisce semplicemente nel modo giusto quando si presenta l'occasione, non ha bisogno di dichiarazioni preliminari di buona volontà. Sono diversi anni che ho smesso di pensare ai buoni propositi la sera di Capodanno e soltanto la tempesta che si è abbattuta sulla chiesa mi ha riportato a questa antica abitudine. Ho scoperto da molto tempo ormai che per quanto l'anno i propositi siano nuovi, io sono sempre la stessa e non ha senso mettere il vino nuovo in una bottiglia vecchia. Ma io non sono una bottiglia vecchia. Ha protestato il re qualche ora dopo, quando il calore e la luce della biblioteca mi avevano infine riportato la mia visione del mondo e le stavo raccontando la mia esperienza. I miei buoni propositi li accompagnano felicemente fino alla primavera. Alla fine di ogni mese li riconsidero e cancello quelli inutili. In genere, prima della fine di aprile, li ho sottoposti a una revisione talmente severa che non è rimasto neppure uno. Lo vedi che ho ragione io? Se tu non fossi una vecchia bottiglia, con il tempo i nuovi contenuti diventerebbero tranquillamente parte di te e dover attuare i buoni propositi non ti costerebbe più amarezza perché diventerebbe un'abitudine. Ha scosso la testa. Queste cose non perdono mai l'amaro, ecco perché non permetto loro di restarmi aggrappate fino all'estate. Quando arriva maggio mi lascio andare all'allegria insieme al resto del mondo. E sono troppo occupata a essere contenta per preoccuparmi di qualunque proposito io abbia formulato in giornate fredde e buie. Ed è per questo che ti voglio bene, ho pensato. Spesso il re esprime a parole quello che sento dentro di me. Mi chiedo se gli uomini facciano questa cosa dei buoni propositi. Ha continuato dopo qualche istante. Non credo. Ho un lusso tipicamente femminile, una sensazione piacevole quando non hai altro da fare e ti concedi un dolore e un pentimento senza limite e ti maceri completamente nella contrizione. Ed è stupido. Perché piangere su ciò che si è fatto? Perché agire male se poi dopo ci si pente? Non si è cattivi a meno che non ci piaccia esserlo. E nessuno si pente mai se sa che la sua cattiveria non sarà scoperta. Con nessuno ti riferisci alle donne, vero? Ha detto il re. Certo, i termini sono sinonimi e poi gli uomini hanno il coraggio di sostenere le loro opinioni. Miss Minora, spero tu stia ascoltando, ha detto il re nel tono di voce amabile che assume ogni volta che si rivolge a quella giovane donna. Era quasi mezzanotte ed eravamo sedute attorno al fuoco aspettando l'anno nuovo. Sorseggiavamo vin brûlé che l'uomo della collera aveva preparato su un tavolino, una bevanda calda, dolce e disgustosa, che tuttavia è tradizione bere in questa occasione, per cui l'abbiamo bevuta. A Minora noi due non stiamo per niente simpatiche. Ce ne siamo accorte subito e quando ci troviamo da sole ridiamo di questo. Capisco che non le piacere, ma deve essere una creatura perversa per non amare me. Ire la prende in giro, mentre io credo, spero, di essere sempre gentile con lei. Ciononostante, ci ha assegnate entrambe nel suo libro nero ed è anche palese che considera l'uomo della collera un interessante caso umano di marito maltrattato e incompreso, perché lo difende a spada tratta e cerca di prenderlo sotto la sua ala protettrice. Lei non le rivolge mai la parola. Certo, non è un uomo loquace, ma se fosse per Minora potrebbe essere persino sprovvisto di lingua. Quando Minora ci rimprovera per qualche osservazione irriverente nei suoi confronti, lui se ne sta immobile e impenetrabile come una sfinge. Una sera, pochi giorni dopo il suo arrivo, Minora ha esibito, cosa mai più successa, dei modi provocanti e giocosi nei confronti dell'uomo della collera, che però reagiva sempre con l'inalterabilità di una statua. Quella sera a tavola abbiamo festeggiato la moglie di un domestico che aveva appena partorito un maschio dopo una sfilza di 5 femmine, brindando alla salute di tutta la famiglia. L'uomo della collera ha fatto bere al neo padre un bicchiere tutto d'un fiato e ha battuto i talloni secondo la tradizione militare. Minora ha subito pensato che quel gesto fosse una tipica usanza tedesca e non solo l'ha notato nel taccuino, ma si è unita con entusiasmo al brindisi e poi ha fatto la civetta. Devo dire che da allora la ragazza è rientrata nei ranghi. Comunque, quella sera ha anche cercato di insegnarci una danza che si chiama, credo, Washington Post e che va molto di moda in Inghilterra. Per convincerci a impararla ha suonato il motivo al pianoforte, ma noi sprofondati nelle nostre poltrone a scaldarci i piedi al fuoco siamo rimasti indifferenti a tanta bellezza. La fila di piedi comprendeva quelli dell'uomo della collera, tranquillamente assorto nella lettura di un libro e intento a fumare. Minora si è offerta di mostrarci i passi e vedendo che non ci muovevamo si è messa a ballare da sola alle nostre spalle. Irene non si è neppure voltata a guardare, soltanto io sono stata abbastanza gentile e educata da farlo. Merito forse di star nella lista delle persone sgradevoli accanto a Irene? Non credo proprio, eppure ci sto, è evidente. È chiaro che servirebbe l'accompagnamento musicale, ha commentato Minora ansimando mentre saettava tra le poltrone. Parlava con me, ma lanciava occhiate all'uomo della collera. Nessuno le ha risposto. «Un ballo tanto carino!» ha insistito, sempre con il fiatone. Nessuno le ha risposto. «E da noi sta facendo proprio furore!» Nessuna reazione. «Posso insegnarvelo?» «E perché non prova Air Sage?» È andata da lui e gli ha fatto un inchino. Gli si rivolge sempre così, ignara del fatto evidente a chiunque che lui si offende. «Oh, su via! Chiuda quel vecchio libro barboso!» ha insistito tutta pimpante, vedendo che lui non reagiva. «Sono sicura che si tratta di un arido trattato di agronomia che le fa venire sonno. Danzare la farà stare meglio!» Ire e io ci siamo guardate con terrore, poi con un gridolino giocoso l'infelice gli ha strappato il libro di mano. «Siamo impallidite!» Stringendoselo al petto è scappata nell'altra stanza, voltandosi per guardare l'uomo della collera con una smorfia birichina. C'è stato un momento di tremendo silenzio in cui non osavamo sollevare lo sguardo. Poi l'uomo della collera si è alzato, ha scrollato la cenere dal sigaro, ha consultato l'orologio ed è uscito dalla porta opposta. Per il resto della serata è rimasto nelle sue stanze private. Per quanto riguarda Minora, da quella sera non ha più cercato di fare la civetta. Insomma. Ire stava chiedendo a Minora di ascoltare, perché questo genere di conversazione potrebbe farle bene, ha detto. Ascolto sempre quando le persone dicono cose ragionevoli, ha replicato Minora mescolando il suo grog. Ire le ha lanciato uno sguardo scettico. È d'accordo con la descrizione che la padrona di casa ha dato delle donne? Donne come nullità? Certo che no. Eppure ha ragione. Per la legge nel nostro paese noi siamo letteralmente nullità. Sa che qui da noi alle donne è proibito partecipare alle riunioni politiche? Davvero? Ha tirato fuori il taccuino. La legge vieta espressamente alle donne, ai bambini e agli idioti di partecipare ai comizi. Bambini e idioti. Lo capisco, ma le donne starebbero nel novero degli idioti? Nel novero dei bambini e degli idioti. Sì, ha ripetuto il re annuendo seria. E sapeva che la legge vieta alle donne di qualsiasi età di salire al piano superiore degli omnibus e dei tram? davvero? E sa perché? Non riesco a immaginarlo. Perché quando salgono e scendono le scale potrebbero mostrare le calze, le relative caviglie ai passeggeri maschi. Ma cosa sa? Che la morale del popolo tedesco è talmente compromessa che basterebbe un'occhiata a un paio di caviglie per distruggerla completamente? Ma come può una calza a righe? Ha detto il re. E rammendata, ho aggiunto. Essere così nociva? La calza nociva, ovvero Considerazioni sull'etica della sottogonna. Dia questo titolo al suo prossimo libro sulla Germania, ha consigliato il re. Non so mai se parla sul serio o no, ha detto Minora in tono lamentoso, lasciando cadere il taccuino. Ah no, ha detto il re soave. È vero che le vostre leggi pongono le donne alla pari dei bambini e degli idioti? Minora si è rivolta all'uomo della collera, che in quel momento era indaffarato con i limoni dall'altra parte della stanza. Certo, ed è pure una classificazione giusta, ha risposto lui senza esitare. Siamo rimaste tutte a bocca aperta. Tutto ciò è offensivo, ho commentato quando ho ritrovato la favella. La verità è sempre offensiva, mia cara, ha replicato con aria di sufficienza. Se mi incaricassero di redigere un nuovo apparato di leggi e avessi fresco nella memoria il privilegio di cui ho goduto ultimamente, di ascoltare le conversazioni di voi tre giovani signore, adotterei la stessa classificazione. Persino Minora si è irritata a queste parole. Quindi lei ci sta dicendo in modo molto diretto che siamo delle idiote, ha detto il re. Idiote? No, no, per nulla. Dico che siete bambine, piccoli e dolci bambine. Mi piace molto sentirvi parlare. Quello che pensate e credete è giovane e impertinente e per giunta non ha la minima rilevanza per nessuno. Nessuna rilevanza? Ha inveito Minora. Quello che crediamo ha un'altissima rilevanza per noi. Sta prendendosi gioco di ciò in cui crediamo? Ha chiesto il re. Non mi permetterei mai di turbare o cambiare le vostre graziose convinzioni. Che crediate sempre a tutto è la vostra attrattiva principale. Come sarebbe disperata la nostra situazione se le giovani signore credessero soltanto ai fatti senza accettare le garanzie offerte da altri, preferendo la prova provata di ciò che vedono i loro occhi. Non avrebbero illusioni. E una donna senza illusioni è la cosa più tediosa e difficile da gestire che sia dato immaginare. Cosa? Ha protestato il re. L'uomo della collera, solitamente taciturno, a volte si rimette in pari con lunghissimi infiniti soliloqui. Si è perciò piazzato con le spalle al fuoco e, bicchiere di vin brulè alla mano, ha dato il via alla concione. Fino allora, Minora quasi non l'aveva sentito parlare, tanto era rimasto in silenzio da quando era arrivata. Adesso se ne stava seduta con la matita pronta ad annotare ogni perla di saggezza che sarebbe uscita da quelle labbra. Cosa ne sarebbe della poesia se le donne diventassero tanto ragionevoli di essere sorde alle banalità poetiche dell'amore? Ammetterete che l'amore si crogiola nelle insulsaggini, spero, ha guardato i re. Sì, è sempre la stessa solfa, ha ammesso lei. Chi potrebbe sussurrare graziosi discorsi sulla bellezza del sacrificio reciproco se la mancanza di immaginazione dell'ascoltatrice le permettesse di individuare in se stessa l'unica vittima della situazione? Minora trascriveva ogni parola, buon pro alle faccia. Chi sarebbe abbastanza coraggioso da affermare che un rifiuto lo condurrebbe alla morte se le sue profferte sollecitassero soltanto la raccomandazione di mettersi a dieta e di fare esercizio fisico all'aria aperta? Le donne sono responsabili delle bugie perché ci credono. La loro incredibile vanità fa sì che accettino lusinghe talmente grossolane da rappresentare un insulto. E gli uomini, dal canto loro, sono sempre pronti a raccontare l'esatta quantità di frottole che una donna è disposta ad ascoltare. Chi, più dell'innamorato speranzoso e non ancora appagato, si abbandona sconsideratamente a esagerazioni tanto plateali come l'usignolo? Egli canterà con infinite modulazioni, esibirà i suoi talenti, instancabilmente ripeterà le sue note più dolci finché non avrà ottenuto quello che vuole. Poi il suo canto, come quello dell'usignolo, cesserà per non udirsi mai più. Scriva anche questo, sussurrato il re rivolta a Minora. Consiglio inutile, poiché la matita volava già rapida sul taccuino. La vanità femminile è talmente sconfinata che dopo aver ricevuto 99 dimostrazioni pratiche della differenza tra promettere e adempiere e della vacuità dei bei discorsi, alla centesima la donna si ritroverà ad ascoltare affascinata ogni eloquente lusinga, come se fosse la prima volta. A cosa le servono le esortazioni delle sorelle forti, emancipate e prive di quelle esperienze? È inutile ripeterle che è vittima dell'uomo, che è il suo giocattolo, che lui la inganna, la calpesta, la domina e ride di lei e la tratta come uno squallido oggetto. Non è un'analisi della realtà. La verità è che la donna è vittima della propria vanità. Come possiamo aspettarci che si ribelli alla fede nel proprio fascino, proprio a quella parte di lei che conferisce colore e interesse a tutta la sua vita? E tu, Elizabeth, saresti così vanitosa? Ha chiesto il re scandalizzata. Hai per caso prestato volentieri orecchio alle lusinghe di 99 uomini prima di approdare al tuo destino? Forse sono una di quelle ragionevoli, perché mai nessuno ha voluto che stesse ad ascoltare le lusinghe, ho risposto. Minora ha sospirato. Mi piace sentirvi parlare della posizione delle donne, ha proseguito l'uomo della collera, e mi chiedo quando capirete che la loro posizione è perfettamente appropriata a ciò che sono. Non appena saranno pronte per occuparne una migliore, non ci sarà potere capace di impedirglielo. Intanto, permettete che vi avvisi che allo stato attuale delle cose, solo le donne forti e determinate vogliono che siate alla pari con gli uomini, e si tratta di donne di aspetto insignificante. Le donne graziose preferirebbero che l'uomo fosse loro schiavo piuttosto che loro pari. Lei sa bene che io mi considero una donna forte e determinata, ha detto il re perplessa. Per questo non si alza mai prima dell'ora di pranzo? Il re è arrossita. Per quanto io non approvi tale comportamento, mi fa molto comodo non averla tra i piedi mentre sbrigo le faccende domestiche, e ogni volta che la vedo incline a farmi la paternale, l'anticipo tirando in ballo questa sua abitudine. Deve essere davvero una questione spinosa per la sua coscienza, a giudicare da come rientra subito nei ranghi, lei che di solito non è una persona remissiva. Una donna priva di vanità sarebbe inattaccabile, ha proseguito l'uomo della collera. Quando una ragazza imbocca il sentiero della rovina, è guidata solamente dalla vanità. Figurarsi se con tutti i controlli che ci sono oggigiorno potrebbe essere forzata a intraprendere un cammino contrario a quello della virtù. E se è stata offesa nella virtù, stiamo pur sicuri che le grida di protesta le sentiremo solo se il colpevole esprime apertamente il pentimento per averla rovinata. Se la sua passione si mantenesse su una cresta incandescente mentre continua ad alimentare la vanità di lei con le affermazioni solenni che la donna ama tanto, nessuna norma assoluta di rispetto o virtù guasterebbe la sua felicità. Della donna, dico. Le esperienze tristi, i fallimenti, insegnano che il rispetto religioso comincia dove finisce la passione e che i nobili principi sono più forti laddove le tentazioni sono più rare. Ma cosa c'entra con noi tutto questo? Ho chiesto severa. Eravate dispiaciute del fatto che la legge vi classifichi come idiote e volevo semplicemente giustificare tale classificazione. Creature che, pur non essendovi obbligate, per abitudine assentono a qualsiasi cosa un uomo proponga loro, persino a qualcosa che si dimostri nocivo. Sono evidentemente esseri irresponsabili. Non ti dirò mai più di sì, caro marito mio, ho detto. E non parlo soltanto di quella fatale debolezza. Onestamente, cosa vi distingue dai bambini? Siete più grandi come età, ma non più sagge. Anzi, con gli anni perdete il buon senso che avevate da piccole. Avete mai sentito un gruppo di donne che parlino tra loro in modo ragionevole? Sì, noi lo facciamo, abbiamo gridato all'unisono i re e io. Trovo interessante nei momenti d'ozio prestare attenzione ai loro discorsi, le storielle maligne che raccontano a proposito delle loro migliori amiche quando non sono presenti, oppure le battutine astiose indirizzate alle presenti. Per non parlare dell'incredulità con cui ascoltano il racconto delle conquiste di un'altra e la sfolgorante buona fede che mostrano quando invece parlano delle proprie, della noia assoluta in cui sprofondano nel momento in cui viene introdotto per un caso fortuito un argomento di interesse generale. Deve aver fatto parte di una cerchia particolarmente simpatica, ha commentato il re. Di politica, poi. Non ho mai sentito parlarne tra donne. Queste cose i bambini e gli idioti non le trovano interessanti, ho detto. Abbiamo troppa paura di finire in prigione, ha osservato il re. In prigione? È intervenuta Minora. Non sa che se parla di queste cose rischia seriamente di essere incarcerata? L'ha avvertita il re. Ma perché? Perché? Forse il suo intento è innocente, ma pronunciando certe parole suggerisce qualcosa, pensieri molto meno innocenti nella mente perversa di chi l'ascolta. Perciò interviene la legge che lo chiama dolus eventualis e tutti dicono: ma che discorsi tremendi! Così lei va in prigione ed è punita come merita. Minora sembrava disorientata. In ogni caso, non è questo il vero motivo per cui non ne parlate, è intervenuto l'uomo della collera. Sono argomenti che non vi interessano tutto qui, o forse non considerate degni di interesse le opinioni delle vostre amiche, perché se sono presenti politici di sesso maschile, l'interesse vi torna e come, anzi, pendete dalle loro labbra. Ho visto una graziosa giovane di neanche 20 anni che per un'intera serata è rimasta a sorbire con attenzione spasmodica la dubbia saggezza di un politico stagionato. Era una celebrità del doppio giochismo e le stava rifilando tutte le sue teorie in merito al bimetallismo. Secondo me, invece, per chissà quale motivo voleva ruffianarselo. È riuscita a farlo parlare del suo hobby e lui è stato tanto stupido da credere che le interessasse. Dei due, chi era il più stupido? Ha detto il re, lasciandosi andare contro lo schienale della poltrona e guardando l'uomo della collera con aria di sfida mentre batteva il piede sul tappeto impaziente. Voleva essere considerata intelligente. Quello che mi ha sconcertato però è che la giovane se n'è andata serena e felice come quando è arrivata. Di solito la spiegazione dei principi del bimetallismo produce l'effetto opposto. Semplice. Non aveva ascoltato una sola parola e quella ingenua stella della politica si era reso ridicolo per tutta la sera, ha esclamato il re. Ciancia, ciancia, stellina bimetallica, ti piace pensare alla donna come a una damsvibe, ma tu sei ben più stupido, stellina bimetallica, tutta ciance. Non ho dubbi che non avesse capito granché, ha commentato l'uomo della collera senza notare quella parodia. Neppure quel signore aveva capito granché. Il re era chiaramente irritata. Lei non ha una grande opinione delle donne, ha detto Minora con una vocina debole debole. Tuttavia ammetterà che nell'assistenza ai malati la donna è insostituibile. Se sta pensando alle infermiere, le dirò che secondo me lui si è sposato principalmente per non avere una sconosciuta tra i piedi quando è malato, ho detto. Ma converrete che la stanza del malato è il luogo dove la delicatezza e il tatto di una donna hanno maggiore valore, ha mormorato Minora, frastornata di fronte al massacro delle sue illusioni. Delicatezza e tatto sono qualità che non ho mai riscontrato in nessuna infermiera professionale. Nella mia esperienza, l'infermiera è una persona sgradevole che nell'esercitare la sua professione trova fantastiche opportunità per affermare la propria superiorità su un'umanità ordinaria e prostrata dalla malattia. Non conosco posizione più umiliante per un uomo che trovarsi a letto con la fronte che brucia per la febbre, mentre uno sconosciuto dalla divisa inamidata e immacolata gli cambia i pannicelli rinfrescanti. Darebbe metà dei suoi averi pur di riprendersi i suoi vestiti e l'altra metà per cacciarla via e rimanere solo. Percepisce la superiorità di quella donna con ogni singola terminazione nervosa. Si rende improvvisamente conto della propria assoluta inferiorità. Si comporta con abietta cortesia e spregevole arrendevolezza. Se un amico viene a trovarlo, loda la guzzina nel caso lei stia a origliare dietro il paravento. Non è più padrone di sé. E cosa ancor più intollerabile, non è più sicuro che il suo corpo gli appartenga. Ha sentito parlare di angeli soccorritori, del tocco leggero della mano femminile, ma il giorno in cui può finalmente chiamare il suo cameriere e infilarsi i calzini da solo, si sente pervaso dalla stessa gioia selvaggia che provava da studente quando finiva il trimestre e poteva tornare a casa dalla famiglia. Minora taceva. Il piede di re era più agitato che mai. E l'uomo della collera ci guardava con un sorrisetto scialbo. Come si fa a discutere con una persona talmente convinta della propria infallibilità che neppure si arrabbia con te? Siamo rimaste sedute senza dire nulla. Il re lo osservava, sprezzando ribellione da tutti i pori. Se lei dubita della verità delle mie osservazioni e preferisce aggrapparsi ancora alla vecchia concezione poetica della nobiltà d'animo delle donne che si sacrificano per aiutare e contenere a cura il paziente nel difficile percorso che lo conduce alla morte o alla guarigione, la prego di verificare lei stessa la prossima volta che In casa sua si ammala qualcuno, se la realtà dei fatti corrisponde alla sua pittoresca convinzione. L'angelo che dovrebbe alleviare le nostre sofferenze si manifesta in modo talmente discutibile che alle persone prive di immaginazione appare soltanto come una giovane donna fin troppo sicura di sé, saggiamente preoccupata di assicurarsi innanzitutto ogni comodità personale, abituata a lamentarsi del cibo che le viene fornito, nonché a rivelarsi inefficace laddove dovrebbe essere d'aiuto, dotata della straordinaria capacità di percepirsi come vittima oppure non considerata l'essere superiore. Che invece è consapevole di essere, morbosamente preoccupata che la servitù per sbaglio la tratti con una cordialità sintomo di mancanza di rispetto, permalosa se il paziente si rivela più difficile di quanto si aspettava, profondamente offesa e sgradevole se il paziente, spinto dalla gravità delle sue condizioni, trova la forza di risvegliarla durante la notte. Un atto disperato, questo, di cui mi sono reso colpevole una volta, una soltanto. Ah, oh, queste brave donne. C'è un uomo sano di mente che abbia voglia di avere a che fare con gli angeli? Alla loro presenza ci opponiamo soprattutto quando siamo malati e tristi, quando ci rendiamo conto in ogni fibra di quanto siamo miseri e quando abbiamo bisogno di tutta la nostra forza d'animo per sopportare pazientemente un temporaneo stato di inferiorità, senza peraltro essere obbligati ad assumere un atteggiamento di scodinzolante e umiliante cortesia nei confronti dell'angelo che dimora sotto il nostro tetto. Dopo queste parole è sceso il silenzio. Infine il re ha commentato: Non sapevo che potesse parlare così tanto, Herr Sage. Allora, cosa vorrebbe che facessero le donne? Ha domandato Minora con fare sottomesso. Il re ha ripreso a battere il piede. Che cosa poteva importare a noi quello che vogliono gli uomini della collera? Non ci sono abbastanza mariti per tutte, e quelle che rimangono senza devono pur fare qualcosa, ha proseguito arrossendo. Certo che potete fare qualcosa. Studiate l'arte di piacere con l'eleganza degli abiti e la raffinatezza dei modi finché siete abbastanza giovani da interessarci, ma soprattutto studiate tutte, carine e insignificanti, sposate e nubili, l'arte culinaria. Se siete artiste in cucina, vi apprezzeremo sempre. Sono rimasta immobile e muta. Tutte le donne tedesche, persino la testarda e i re, imparano a cucinare. Solo io sono troppo ribelle e mi sono sempre rifiutata. Dovete però stare molto attente, perché le due arti, quella di piacere e quella di cucinare, devono essere praticate nell'ordine giusto. Non dovete infatti dimenticare che la cena precede le moine e non l'inverso. L'uomo, prima di fare l'amore, vuole sentirsi a suo agio. Infatti, se dovesse scegliere tra lo Spickgans e i baci, direbbe che li vuole entrambi, ma inizierebbe comunque dallo Spickgans e vorrebbe i baci come dessert. A questo punto mi sono alzata, subito imitata dai re. Il tocinismo è disgustoso, ho detto con il gelo della voce. Voi due siete sempre l'eccezione a qualsiasi cosa possa dire, ha replicato, sorridendo amabilmente. Si è chinato per baciare la mano di re. Il re è oltremodo orgogliosa delle sue mani e dice che suo marito l'ha sposata proprio per la bellezza delle mani, cosa che non fatico a credere. Sono contenta che appartengano a lei e non a Minora, perché altrimenti mi avrebbero dato molto fastidio. Le mani di Minora sono ossute, con le nocche che sembrano sbiancate dal freddo, le unghie trascurate e i polsi troppo massicci. Quando le guardo le mani mi sento molto ben disposta nei suoi confronti. Ha presentato la mano, pensando di ricevere anche lei un bacio. Sapeva che da noi c'è l'usanza del baciamano, ha detto il re vedendo quel gesto. Solo per le donne sposate, ho aggiunto. Non volevo che si sentisse esclusa. Non per le signorine. Lei l'ha tirato indietro. È un'usanza simpatica, ha detto con un sospiro. Poi, con aria meditabonda, ha scritto qualcosa sul taccuino.